ci sia un motivo per questo. In uno scontro verbale tocca imparare a essere cattivo. Ma che fai quando ti pesa anche un respiro? Questa è la ballata di Kane, The House of Pain. Motherfucker, la mia vita è morta, la tua è migliorata. Sacaz, altro che Jackass, Nadas, come gli Outsiders. Nathan, come mi sai, fa sbrada, come in The Finest Fida. Tutti parlano di pop e non sanno cos'è. Come si fa, quando si fa e soprattutto perché. Tutti attaccati alla bomba come De André, ma poi pretendono pure di percepire il cachet. Se ci fosse un motivo sarei già andato via, lontano dal mondo, da quel che sia. Non ho bisogno di obiettivi, lo faccio per me in primis, lo faccio solo per la vita mia. Se sarei già andato via, lontano dal mondo, da quel che sia. Non ho bisogno di obiettivi, lo faccio per me in primis, lo faccio solo per la vita mia. Se ci fosse un motivo sarei già andato via, lontano dal mondo, da quel che sia. Non ho bisogno di obiettivi, lo faccio per me in primis, lo faccio solo per la vita mia. Vorrei bastasse un secondo per dimostrarti che in fondo siamo da soli nel mondo. E chi urla troppo è già sordo, non ho bisogno del soldo, perché mi passa un ricordo, solo un ricordo quando chiudo gli occhi e dormo. Ma poi mi sveglio, sembra tutto troppo facile, la vita è troppo fragile, si taglia con le pagine. Tu, l'ennesima stronza che adesso asciuga lacrime, ma come spezzare cuori non ti veniva facile? Non ho capito che il primo, non ho capito il motivo del perché tutti piangono in questo asilo. Non ho bisogno di obiettivi, sei tu il mio obiettivo per vivere e scrivere quello che scrivo. Se ci fosse un motivo sarei già andato via, lontano dal mondo, da quel che sia. Non ho bisogno di obiettivi, lo faccio per me in primis, lo faccio solo per la vita mia. Se ci fosse un motivo sarei già andato via,